va quasi nel rosso delle dita, ma io col bacio e col morso lineare mi va a 1-1, non so come mai che discorso lì. Non mi importa. Ma qui l'ho appena portata a casa per il giorno. Ho fatto un'oretta e sono fetta da un tacco, Dio Marco non va. Adesso vuoi figlia a vedere cosa che dico. C'era un po' di propagazione, Nord Italia, si sentiva Torino, Padova, insomma un sacco di città là, dell'arco alpino, insomma. Sì, e diciamo che anche ieri, anche avanti ieri qualcosina di propagazione si sentiva, però quando si tratta di propagazione in lingua straniera a me non mi interessa, perché io non capisco la lingua, per cui non ci provo nemmeno. Io qualcosina mastico anche in inglese, ma quelli che ho collegato stasera a Torino, Padova, già erano italiani, ma diciamo li sentivo come se fossero a 10 km da qua a bomba, e loro altrettanto mi hanno detto che mi sentivano al massimo della radio, capito? Sì, ci sono dei momenti straordinari come propagazione, per cui quando lo schippi è molto lungo soprattutto è eccezionale, allora ci possono fare dei bei collegamenti con tanta chiarezza e comprensibilità, per cui va bene così, sono contento, che almeno se non altro dalla parte dell'Italia c'è qualcuno ancora, perché qua mi sa che tutti quanti si stanno ritirando, non sento quasi più nessuno. Sì, qua è rimasta poca roba, però nel resto d'Italia quando c'è propagazione si sente un po' dappertutto, insomma, quindi meglio così, dai, vuol dire che ancora non è morta del tutto la Citizen Band. No, infatti nel resto dell'Italia c'è sempre abbastanza affluenza in frequenza, perché me ne rendo conto, perché io seguo sempre quel riparatore, quel tecnico riparatore di radio ricettoremittenti eccetera, no? E lui non fa altro che fare i video dei lavori che fa, che esegue e li pubblica su YouTube, ma riceve radio da tutte le parti dell'Italia, anche dall'estero addirittura, per riparare. Evidentemente ancora c'è della gente che usa il baracchino. Sì, no, ce n'è, perché io anche frugando su internet oppure sui siti dove si vende, eccetera, c'è un sacco di roba proprio della Citizen Dan, dalle antenne alle radio. E a proposito di radio, mi sono preso un portatilino anche. Ah, ok. Portatilino sempre di questa frequenza? Sì, sì, esatto. Perché ho detto voglio provare a metterlo in macchina, perché c'è un adattatore che ha la presa accendisigari e poi l'uscita per l'antenna, quindi con base magnetica voglio provare a vedere qualche collegamento in auto, insomma, in barra mobile. Sì, ma certo, è possibile anche quello di via, ad esempio qua ormai la gente in macchina non ne usa quasi più, qualcuno così forse già negli anni era doppio zoom, di tanto lo installa l'apparecchio entrare in macchina. E anche Bruno Uragano, lui anche diciamo principalmente in macchina, Bruno Uragano, perché da casa non modula mai, perché non ha l'antenna, per cui però non è come prima, dai, diciamo, pazienza. Il tempo viene e passa, purtroppo è così. Io diciamo che siccome in macchina ci passo anche un bel po' di tempo, perché lo sai, lavoro ad Alghero, quindi tutti i giorni con la macchina avanti e indietro, magari anziché ascoltare la solita radio e la musica, magari se c'è qualcuno in frequenza provi a fare qualche chiamata, eccetera. Poi dipende da che servizio faccio, molte volte sono solo, per cui mi porto la macchina vicino e magari ho la possibilità anche lì di fare qualche collegamento, tutto lì, non è che ho preso una radio usata, capito? Ok, sì, beh certo, no? Se quando funziona bene non c'è problema, anche se usata è ultima, diciamo che forse è più indicata anche per la macchina, così almeno non hai niente da perdere in caso di... Vabbè, gli abbia capito. No, perché non ti fidare molto a lasciare le macchine, quando ti sposti dalla macchina nascondila nel cassettino o nel portabagagli, insomma, da qualche parte, non ti fidare, no, non per niente, soprattutto per la macchina, perché ti spaccano il vetro e non si sa mai. Sai, una volta succedeva così e penso che quel vizio, tu lo sai benissimo, il lupo cambia il pelo ma non il vizio, cioè mi riferisco ai ladri, no? Ho capito, sì, io infatti come rientro a casa poi tolgo la base magnetica e via, e la radio me la porto su nello zaino. Sì, è più prudente fare così, in effetti è meglio sicuramente, almeno sei sicuro che nessuno te la può prendere. Vediamo se c'è Gianfranco all'ascolto oppure Natalino. Gianfranco, Natalino, ci siete in ascolto? Sì, io sì, mi stavo ascoltando ma stavo leggendo alcune cose. Buonasera a entrambi. Ciao Gianfranco, buona serata anche a te. Non sono in perfetta forma oggi comunque, però diciamo che già posso andare avanti, dai. Avanti Carlo per Gianfranco. Buonasera Gianfranco, mi facendo quattro chiacchiere con Giulio, l'ho beccato facendo delle prove, quindi siamo passati sul 10. Sì, buonasera Carlo, ben ascoltato. Io di Roma sono sempre in ascolto, però come noto faccio anche altre cose. Come tutti, diciamo, a seconda di dove sia la radio si approfitta per fare altre cose, capito? Stai col computer o magari io che ce l'ho in cucina molte volte mi metto ai fornelli e così via. Sì, infatti, è così. Allora Giulio, come andiamo? C'è un po' di freddino, eh? Sì, diciamo che in questi ultimi due giorni un pochino di fresco si è sentito, eh? Infatti diciamo che durante la notte abbiamo dovuto mettere la coperta un pochino più pesante proprio per evitare di avere freddo. Va bene, ieri come dicevo a Carlo ho fatto la terapia, ho già fatto, e questa è la terza settimana e dunque anche questa fase è finita, adesso la dovrò riprendere fra 6 mesi e appunto sarà per quello che avevo un pochino di freschetto e allora mia moglie ha messo una coperta un pochino più pesante per ieri notte, poi stanotte si vedrà. Ok, riprendi ancora Gianfra. Sì, no, ma è scesa, non c'è paragone rispetto agli altri giorni. Stamane quando sono uscito la temperatura era molto bassa, veramente c'era un freddo micidiale. E poi intorno a mezzogiorno scaldò un pochino, ma insomma, oramai dura poco, siamo quasi a novembre, quindi era destino. La cosa più brutta è che tra qualche settimana scatterà quest'ora solare, quindi adesso saranno già le 7:30 addirittura, saranno le 5:30, quindi ci sarà buio molto molto prima e non verrà male anche uscire. E così, riprendi Carlo. A proposito di quell'ora lì, a me non piace proprio quell'orario. Speriamo che lascino questo per sempre, ma mi sa che ancora la Commissione Europea non ha imposto che tutti gli Stati debbano adottare un orario. L'aveva proposto, ma non imposto. Ma speriamo che lo facciano quest'anno, dicono che sia l'ultimo, ma poco ci credo. Avanti Giulia. Sono già qualche anno che stanno decidendo di fare una cosa del genere, cioè di tenere l'ora legale, cioè l'ora legale appunto fissa, in modo da non... però c'è un po' il conto, diciamo, dai, perché alle volte ad esempio la mattina presto uno esce alle 7 la mattina ed è buio, 7:15 è ancora buio, mentre invece quando cambiano l'orario solare allora alle 7 la mattina c'è un po' più di luce. Cioè, sto pensando che ad esempio mia figlia esce a quell'ora la mattina per andare in ufficio, per cui ed è buio, alle 7:15 è ancora buio, dai, non è schiarita completamente. Va bene, dai, comunque va bene sempre, non è un problema, o l'una o l'altra, tipo di sistema, va sempre bene. Dimmi una cosa Carlo, come hai fatto a trovarmi su 7? Stavi spazzolando oppure mi hai sentito perché magari eri sintonizzato lì? No, stavo spazzolando, ho visto portante segnale, quindi ho bloccato e poi ti ho riconosciuto insomma dalla segnale e dalla voce. Sì, quello sì, la mia voce è inconfondibile, ha una voce che è in falsetto praticamente. Lo so, no, Gianfranco non avrebbe problemi perché lui vede il monitor dei vari segnali, dunque sa dove c'è la trasmissione. Avanti Gianfranco. Sì, riesco a controllare la banda con l'altro apparecchio. Questo è un altro perché era veramente un peccato utilizzare apparati diciamo così performanti per la 27. Questo infatti Giulio è un altro, e questo è proprio un apparecchio diciamo CB, è un coso, un president, che mi ha detto che va comunque molto bene, e quindi per far durare un po' di più gli altri utilizzo questo che è da battaglia, diciamo così, dai. Ok, è perfetto, non va bene, ma è perfetto addirittura, e dunque quello è l'aggettivo da usare, è perfetto, è anche più forte di segnale, perché adesso mi stai arrivando 9+5 a differenza di prima, vabbè tu usavi magari 1 watt, mezzo watt, e mi arrivavi a Santiago 8, 8 e mezzo, una cosa del genere, con questo mi stai arrivando 9+5, dunque il segnale è anche buono, non c'è problema, la radio è perfetta, chiarissima e molto molto percepibile. Avanti Carlo. Poi presidente non è neanche tanto da battaglia, perché è sempre un'ottima marca che insomma l'esperienza ce l'ha sia nella Citizen Bank che per gli HF. Sì, per gli HF magari no, perché ha fatto sempre degli apparati per la 27, però diciamo che è una marca molto, molto affidabile, Cuzzulli. Giulio, attualmente ci vedo perché sto prendendo la vista a grandi passi, sto diventando mio come una talpa, comunque rispetto a prima è il doppio dei watt, prima era 1,5 watt, adesso sono 3 watt praticamente. Sì, infatti mi sono accorto subito della differenza, che c'è un pochino più di potenza. No, è perfetto, altro che ottimo, veramente. Gianfra, usalo sempre perché ha un'ottima radio, veramente bella, pulita, chiara, e non è nemmeno bassa, è abbastanza forte di lì, nonostante che io il volume della radio qui lo tengo sempre basso, però ti sento in maniera proprio impeccabile, molto molto bene. Va bene, dai, avanti Carlo. Sì, belle radio le Presidente, ne ho avuto in passato e hanno funzionato sempre bene. Adesso sono passato a queste tedesche, Albrecht, ma anche queste vanno abbastanza bene. La caratteristica è che hanno anche le bande laterali, i watt sono regolabili, c'hanno il clarifier per centrare bene la frequenza in banda laterale. Diciamo che per adesso sta andando bene anche la mia. Sì, va benissimo anche la tua, non c'è problema. Tanto te l'avrei anche detto se non andasse bene una radio, quando io la sento, se va bene non c'è motivo nemmeno di dirlo, perché è cosa devi correggere, niente, se va bene va bene, basta, no? Non c'è niente da correggere, per cui va bene così. Sì, anche l'Albert non è che sia una marca da mettere indietro, negli ultimi anni anche quella d'Italia ha costruito dei bei baracchini, per cui anche quello va bene, non c'è problema. Poi il Presidente, lo sappiamo, il Presidente è una delle marche, sempre parlando della 27, è una delle marche tra i migliori, dai, diciamo, che abbiano mai fatto, per cui non è da mettere indietro, è sicuramente un'ottima radio. Avanti Gioca. Sì Giulio, ma io mi ricordo anche un'altra marca, la Passinson, che leggendo la vecchia rivista lì dei circuiti elettronica, leggendo i prezzi erano veramente stratosferici, praticamente erano le Ferrari della 27. Sicuramente tu ne avrai visto tanti, ma poi alla fine erano in pochi a permettersi di quegli apparati lì. Beh, lo so, sì, in effetti quella marca lì, non dico che era la numero uno, ma era lì, era molto ma molto vicino alla numero uno, alla 27, sicuramente. Però io, devo essere sincero, ho sempre preferito il Saturn Echo per la 27, per me come modulazione è eccezionale, senza andare con apparecchiature americane molto costose, perché se poi parliamo del Ducky e tante altre, allora il discorso è tutto l'altro. Però come modulazione, perché ho notato che il Galaxy Saturn Echo è una radio che si addice a qualunque timbrica di voce, per cui va sempre bene, sempre bella, pulita, chiara, proprio ottima veramente. Avanti Carlo. Buonasera, solo un saluto, grazie a Tornecco, buonasera a tutti, buon QSO, baci e abbracci a tutti quanti. Avanti Carlo, ciao. Buonasera, mi chiacchierando con Giulio e Gianfranco di apparecchiature della CB, tutto qui. Vi ascolto, vi ho sentito. Va bene, infatti c'ho solo questa accesa, le altre sono tutte spente, tanto già funziona lo stesso. Ciao Giulio, ciao Gianfranco, ciao Carlo. Buon QSO a tutte e tre e ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao. Ok, ciao Claudio. Ecco, quella è la prova di quello che stavo dicendo, Carlo, il Saturn Echo che stava usando in questo momento Claudio, a parte la sua timbrica che è fenomenale, forse la migliore in assoluto della 27, almeno per quanto riguarda Sassari. Va bene, ok, avanti Gioca. Sì, ciao Claudio, buona serata alle prossime. Ma anch'io, guarda, se devo trovare un difetto su questo presidente è quello che è molto sembrerebbe molto stretto con le modulazioni potenti e quindi va a tratti, capito? Sembra che ci sia lo squelch inserito e quindi fa questo effetto strano che rende la radio tutta spezzettata. Probabilmente è dovuto proprio al fatto che è molto stretto, infatti è anche selettivo. Adesso sotto si sente che la propria sta risalendo, si sente gente parlare. Non so da dove provenga. Riprendi Carlo. Sì, sì, ho capito. No, la voce di Claudio è fenomenale. Io a volte la sento sull'11 oppure sul 9, magari quando sto facendo la scansione, e lui è sul 10, quindi la radio che sta usando è eccezionale, va bene, a parte il timbro di voce, però deve essere anche la radio buona. Sì, una bocca di canta, molto ripreso Giulio. Sì, mi ero spostato solo un attimino che stavo parlando con mia moglie. Sì, tornando al discorso del presidente, come ho detto poc'anzi, il presidente è una delle marche migliori in assoluto, ma ce ne sono anche altri che sono a pari merito, come ad esempio il Galaxy anche normale, l'altro come si chiama, aspetta che non mi viene adesso il nome, ce l'avevo sulla punta della lingua poc'anzi, che anche quello una radio molto molto interessante per la 27, vabbè dai, dopo che mi ricordo lo dico quale banca intendevo. Avanti Carlo. Niente, io purtroppo per un attimo devo fare QRX perché mi chiama mio figlio che ha un problema col PC e quindi mi sposto nell'altra stanza. Comunque sono in ascolto e ci sentiamo tra un attimo. Ok, d'accordo Carlo, ci sentiamo dopo allora, dai. La Midland volevo dire, la Midland lo stesso fa delle radioline, anche quelle io a me sono sempre piaciute, mentre invece un po' meno l'Intec, non è male, la verità, non è che voglio criticare l'Intec, però non è certamente a livello del presidente della Midland e di altri, del Galaxy, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, per cui non la classifico a quei livelli, io. Sì, era più, come si dice, nazional popolare l'Intec, ma anche la Midland. Tra l'altro la Midland è venuta molto dopo. Diciamo che comunque nel complesso delle cose sono apparecchi da più che altro da prendere in macchina, in stazione base sono un pochino, come dire, in certe situazioni sono insufficienti, ecco, non sono certo da paragonare anche con i vari apparati amatoriali che per questioni diverse hanno anche ovviamente un prezzo diverso, però sono più selettivi, sono più sensibili, sono più tante cose, sempre meno QRM, quindi comunque c'è una grande differenza. E questi diciamo che si difendono, rimangono degli apparati CB, però vanno bene, dai, usati in combattimento, neanche scaldano, non c'è ventola, quindi per certi aspetti sono più comodi. Tieni presente che io sto utilizzando anche il suo microfono, anche se leggere è un pochino scomodo in effetti, però non è pesante come quello degli altri, ecco, è plastichetta, una capsula, un interruttore, quindi si può anche tenere, però insomma tutto sommato va bene, ecco, per l'utilizzo a cui è adibito. Sì, confermo Giofra, va benissimo, altro che... Beh, in effetti è così, chiaramente non si possono paragonare alle altre radio di altra categoria, perché giustamente è tutto un altro tipo di costruzione, è tutto un altro tipo di sistema elettronico, eccetera, oltre al fatto che poi si parla addirittura del campo professionale, questo è tutto un altro discorso, è ovvio. Però diciamo che la loro storia, questo tipo di radioline, io le chiamo così radioline, perché per me sono radioline, hanno fatto una buona riuscita indubbiamente nel corso degli anni, e anche un vintage, tu prendi una radiolina vintage, la usi oggi ed è ottima lo stesso, ha un'ottima modulazione, insomma non decadono mai, dai, non decadono mai, se uno li usa bene, li tratta bene, no, durano un anno, una vita intera durano, no, non c'è problema. Io ne ho avuto tante, ne ho avuto di quelli proprio vintage, adesso me ne sono disfatto, ormai me ne sono rimaste solo due, me ne sono rimasti, ma quando ne avevo 12 addirittura erano tutti uno meglio dell'altro. Un giorno è passato un camionista e ha fatto il carico, andate quasi tutti in due volte, però prima una volta è venuta e se l'ha portato via tre, mi sembra, poi la seconda volta l'ha portato via quattro o cinque, non mi ricordo bene nemmeno, chissà poi a chi le ha dati tutte queste radio. Vabbè, comunque me ne sono liberato, intanto non me ne facevo niente delle radio che lavoravo sempre sulla stessa frequenza. Vai Gioca. Infatti, beh, il raffronto poi con gli altri non si può fare, da una radio, diciamo, classica HF amatoriale, praticamente di questi ce ne escono, credo, 5, e 5, 6, 7 anche, quindi è ovvio che i termini di paragone sono diversi. Comunque, va bene così, io sto sempre tentando di svuotare, più svuoto e più si riempie, quindi siccome qua è anche abbastanza diversificata la cosa, perché ogni cosa ha il suo apparato, e quindi è un po' più complicato sbarazzarsene, e poi molti non li vogliono perché sono troppo cari dal punto di vista anche, cioè di doversi regalare non va bene, capito? Anche perché sono perfetti, però c'è anche un problema di mercato sugli apparati professionali, su quelli professionali sul serio, non confondiamo il professionale con l'amatoriale, che è un'altra cosa, e quelli non li vuole nessuno perché sono molto particolari, tutto lì. Brecco. Registrato. Sì, beh certo, in effetti è così, non si può fare un paragone, è come dal giorno alla notte, ci mancherebbe altro, tutto un altro mondo, tutta un'altra cosa, un po' di radio, eccetera. Non ci sono dubbi. Lo so, purtroppo a disfattere di quelli così amatoriali, come stai dicendo tu, ci vogliono un bel po' di soldini, per cui non tutti se la sentono di fare una spesa alla quale serve per comprare un tipo di apparecchiatura, anche se può essere di seconda mano, è ovvio, è così. Oltre al fatto che poi magari ci vuole sempre la patente, tanta gente magari non lo compra anche per questo motivo qua, dice no, non ho la patente, non mi serve. Non sono tutti che usano le apparecchiature professionali anche senza la patente, anche se non hanno la patente. Sono vari motivi, insomma, ecco. Avanti, vabbè, ciao, buonasera. Sì, ciao, buonasera, ciao Giulio e ciao Gianfranco, non so se ci sia qualche un altro, ditemi voi, vai Gianfranco. Sì, ciao Roberto, buonasera. Beh, prima si è affacciato Claudio per il solito saluto di rito. Claudio Spalviero, e poi c'era anche Claudio, no, Carlo, scusa, intanto mi confondo, che si è allontanato un attimo. Riprendi Roberto. Okay, di cos'è l'argomento quotidiano di oggi? No, stavamo parlando di apparecchi, apparecchietti, di vecchi apparecchi, così senza impegno, è una cosa giusto per chiacchierare, per passare 10 minuti. E tra poco, quando scatta la solare, dovremmo entrare anche prima, perché fa subito buio. Lì, vai giù. Okay. Sì, stavamo parlando dei baracchini, ad esempio del presidente che stavo usando in questo momento, Gianfranco, che va benissimo, è perfetto, va alla grande, no? Non c'è nessun problema. Nell'ascoltarlo è soprattutto molto intelligibile come modulazione, per cui va più che bene, e appunto stavamo apprezzando più o meno in concordo con Gianfranco di questo tipo di baracchini che per la 27 sono ottimali, nonostante che siano magari baracchini anche vintage. Vai, dov'è? Quel presidente, vabbè, tutta la serie più o meno della presidente funzionano molto bene, ricevono bene e trasmettono molto bene, infatti che ho fatto complimenti anche l'altro giorno, ascolto perfettamente, il segnale come al solito forte, però la radio è bellissima, senza nessuna imperfezione. Ok, di nuovo a te Gianfranco. Sì, questo ovviamente non è vintage, è nuovo, è l'ultimo della President. Non so se sia il top di gamma che fanno, anche perché oramai insomma ne fanno, la President ne fa parecchie, dal più piccolino fino al più grande. Il più grande dovrebbe essere questo, più grande nel senso di top di gamma, e gli altri, ma le dimensioni sono quelle del solito veicolare CB, niente di più, niente di meno. E di bello c'è che c'è la frequenza, c'è anche la lettura del canale della frequenza, però anche con i decimali, quindi insomma è una bella novità quella. Riprendi Giulio. Ok, già fa. Sì, praticamente in altre parole è un almode praticamente, quella apparecchio lì. Sicuramente così quando si incominciano a fare certe strumentazioni, diciamo che si può qualificare una radio almode, come tanti altri che ce ne sono. Sì, però si sa, il numero uno in assoluto sono sempre quelli americani, sicuramente come funzionamento quelli da base, anche se io devo essere sincero, a me da base non è che mi piacciono più tanto, perché li trovo troppo ingombranti per essere baracchini, dai. Preferisco i veicolari, la verità, infatti io ne avevo qualcuno anche da base e l'avevo dato. Non sono stato mai appassionato, anche se capisco benissimo e so benissimo che sono migliori anche dei veicolari, e questo sia ben chiaro, non è che lo rinnego, ci mancherebbe altro, però è una questione di passione, di veduta da parte mia, ecco, avanti per me. Allora, c'hai butti o butti la mia, no, invece sono esattamente il contrario, e il veicolare proprio, ce n'è un paio qua in stazione, ce l'ho due alla 48, uno il plus e l'altro li tengo così con il suo microfono, però sinceramente a me questi fili di alimentatori, di coso, piccolini, con i tastieri, mi piacciono, ma anche dico le radio amatoriali, a me piacciono sempre con l'alimentazione interna, preferibilmente, ricevitori, tutti con l'alimentazione interna, avere questi cavi, non mi piace avere tutti questi alimentatori poi separati, eccetera, eccetera, preferisco 10.000 volte un coso, il bus, diciamo non ho problemi di spazio, grazie a Dio, però qualcuno è costretto per questioni di spazio, io ho una sala solo dedicata alla radio e per cui spazio non è abbondanza, ne ho, posso mettere tutto ciò che voglio. Di nuovo a te Gianfranco. Sì, ma questi gusti, insomma gli HF sono tutti, sì, si possono anche mettere in macchina, ma sono dei barragioni grandi, quindi è meglio che siano alimentati, mentre le altre sono con l'alimentatore dentro, sono un po', come dire, generano anche disturbi certi, quindi se non è perfetto l'alimentatore non c'ha gli stessi risultati di altri. Io in caso di emergenza utilizzo anche la batteria, giusto per non, per evitare dei ritorni. Qua stavo ridendo perché continuo a essere imbambito pretendo di ascoltare le cose tenendo le tasti sbagliate, meno male mi sono accorto che c'è l'antenna almeno. Oi. Capita, allora sono molte volte. Pari, tu sei convinto che stai parlando l'apparecchio e l'altro microfono, è capitato anche a me. Vai giù. Succede sì, soprattutto se uno sta ascoltando e facendo attività dall'altra parte, è facile sbagliare, non c'è da meravigliarsi, certo. Sì, beh, è capitato un po' a tutti, addirittura quando io avevo altre radio con questo tavolino, sbagliare il microfono, magari quello era spento perché non stavo nemmeno guardando la radio, così lasciavi, allungavi la mano, prendevi il microfono convinto di essere quello, giusto, invece era quello che era spento, proprio a livello di ribambitismo. Oh, Gianfra, succede, vai Gianfra. Sì, perché come dire, secondo che tipo di ascolto fai, ogni cosa deve avere il suo, come il piede con la scarpa, no? Ogni piede ha la sua misura, quindi qua devi premere quel tastino, se vuoi una cosa premere il tastino, se c'è vuoi l'altra. E quindi insomma, ricordarti tutto non è così facile, soprattutto quando ci hai per la testa tante cose. Certo, in effetti è così. Se volete ve ne racconto una, a me mi è capitato proprio così, proprio in maniera più che distratto di quel punto di come in quel momento non potevo essere, addirittura di prendere il telecomando, parlando convinto di avere, perché allora stavo usando il baracchino con il microfono palmare, no? Addirittura il telecomando, avevo la televisione accesa, ho preso il telecomando per rispondere al baracchino, per dire no. Proprio succede veramente, succedono delle cose veramente strane alle volte, sei indaffarato magari in altre cose, è sovrappensiero, ma pensando chissà che cosa, e poi sbagli prendendo in mano. Capita un po' a tutti, dai, a chi più chi meno, quando c'è un po' di roba davanti, oppure parlando e poi non ti rendi conto che non c'è la batteria dentro il microfono, e dici ma perché non sto uscendo, eppure no, cacchio, ho tolto la batteria, l'ho messa nell'altro microfono. Beh, inizi a preoccuparti quando il microfono è proprio staccato. Sera Roberto. Ciao Carlo, ben sentito anche a te, avanti a te. Risolvendo mi ero allontanato un attimo perché mio figlio non riusciva più a collegarsi al wifi e aveva un po' toccato la configurazione del wifi per quello, però adesso ho risolto con un po' di gira e gira e risolto tutto. Stavo sentendo quello che accade quando hai troppa strumentazione davanti a te. Grazie a Dio, non per vantarmi, già ho qualche radio io in casa, sono appassionato da sempre di telecomunicazione, per cui ho diversi apparati e diverse frequenze per ascoltare tante cose, più cose che magari usi di meno, però mi piace averle. Lo so, io ho dovuto fare invece compromesso con lo spazio, quindi radio piccolina, da auto, però l'ho adattata a stazione base perché non ho molto spazio vivendo in appartamento. E purtroppo qualcuno ha condizioni un po' più disagiate, però si arrangia con quello che ha, dai, non bisogna mai disprezzare niente, ognuno fa quello che può. Dillo qua te Giulio. Sì, beh certo. No, ma io proprio avevo fatto questa scelta, mi sono preso questo tavolino, praticamente un tavolino da televisione, con i vari ripiani, e le ho messi lì, li ho messi. No, se spazio ne vorrei e ne ho quanto ne voglio, perché ho una massaggia tutta a mia disposizione, ti puoi immaginare. Tu mi dirai, ma come mai non ce l'hai installata lì la radio? Fatto no, perché mi è più comoda qua, perché soprattutto la notte, tante volte, anche quando sono a letto, allungo la mano e metto le cuffie e ascolto anche in 80 metri, per dire, no? Eccetera, eccetera. Mi è più comoda così. E no, io di spazio ne ho a voglia, ho una mansarda a 50 metri quadrati, per cui ti puoi immaginare se volessi fare una radio, come se dicevo, una stazione proprio a livello spropositato, diciamo così, lo posso fare perché lo spazio ce l'ho, però non ci ho mai pensato assolutamente. Vai Gianfra. No, io preferisco la soluzione ai piani, come dire, io ho una scrivania, quanto sarà, di 2 metri forse, di circa 2 metri, con sopra dei ripiani, e con questo sistema si riesce un pochettino a risparmiare spazio, perché sennò diventerebbe metterli per esteso è una cosa enorme, perché gli apparati, no, a volte mi dimentico anche di quanti sono. Qua ho tutti operativi con la loro antenna, tra V, CB e compagnia cantante, sono oltre una decina di varie dimensioni, più almeno un'altra decina di portatili, che anche loro comunque occupano spazio. Quindi ce n'è di... La cosa che più mi dà fastidio sono i cavi, che per ovvi motivi sono anche grossi, perché sono difficili da piegare, sono ingombranti, non li puoi tagliare tutti, perché è meglio lasciarne sempre un pezzettino di riserva, quindi sono anche disordinati. Stai sempre lì a mettere PL, a controllare PL, commutatori, eccetera, è un lavoraccio, però la passione è fatta di queste cose. Purtroppo è così. Bisogna sempre sperimentare, provare, trovare soluzioni. Con le radio è sempre stato così e sarà sempre così, con lo stesso, anche i portatili, come dicevi Gianfra, portano via spazio anche quelli, perché hanno il caricabatteria e quindi anche i fili, i vari antennini, clip per cintura, tutto porta via spazio. Purtroppo così, gli apparecchi sono grossi e grassi, come il padrone, e lo spazio è sempre quello. Riprendi, Roberto. No, a me più grandi sono e più mi piacciono gli apparati. Sono innamorato quelli belli grossi, di taglia tipo 9,40 e anche oltre, ne ho visto anche più grandi. Adesso poi ci sono quelli nuovi, la serie nuova tutta della Iaesu, la Icom, che sono degli apparati che hanno un display enorme con tutti i tasti e tasti. A me piacciono così, ragazzi. Quelle concentrate tipo, se li dice, come si chiama, lo 706, un quadribanda fatti in 10 cm, no, non mi piacciono assolutamente. Qua i ricevitori, a me piacciono quelli belli massicci col monopolone che giri, con tutti un bel display, un bel strumento di indicatore, quelli tutto concentrato, il 7003 per dire è bellissimo, è un apparato che desidererei, però lo vedo troppo piccolo, che limite è quello lì? Sì, beh, sicuramente vedere delle radio, delle apparecchiature di una certa dimensione fa piacere, non ci sono dubbi, però come stavate dicendo voi stessi, ci vuole spazio, certo. Vabbè, questo è vero, non c'è paragone, ma io l'avevo anche detto poc'anzi, non c'è paragone dalle radio grandi a quelle piccoline veicolari nella maniera più assoluta, perché ci sono anche apparecchiature radioamatoriali veicolari, cioè dico questo appunto perché so che ci sono anche quel genere di apparecchiature, però la radio, come stai dicendo tu, beh, in effetti più grande è, più bella è, anche a me esteticamente parlando mi piacciono molto, ma molto di più. Però io sempre vado per le cose più pratiche, sempre per la comodità. La comodità è quella fondamentale in tutte le cose, oltre al fatto dello spazio, eccetera, eccetera. Ma lo spazio, ripeto, no, nemmeno per me sarebbe un problema, perché se volessi lo posso avere, tanto più che se non ci sarà mai nessuno, ce l'avrei proprio a mia completa disposizione. Va bene, avanti Carlo. È della serie, ognuno dal cavallo scende da dove vuole. E purtroppo è così, anche a me piacciono le cose un po' compatte, ma non troppo. E capisco Roberto che non ha problemi di spazio, anche io a quel punto avrei preso una radio proprio da base con un bel display grande, eccetera. Purtroppo bisogna fare i compromessi, altrimenti non ci aggiustiamo bene, tutto qui. Riprendo io, adesso hanno messo anche due monitor a collegare gli apparati, così li vedo ancora più belli e luminosi. Caspiterina, due monitor, insomma, li vedi anche da lontano. No, è più bello con tutti, adesso ormai le radio, diciamo, moderne, nuova generazione, sono interfacciabili al computer, e poi quelle funzioni che tu vedi magari in un display piccolino, se le puoi vedere bello grande, lo strumentino, lo smitter, e ci sono anche altre funzioni aggiuntive che si possono applicare all'apparato, in modo che puoi vedere anche altre cose, analizzatore di spettro, eccetera, eccetera. Gianfranco di questo caso ci darà delle lezioni, perché sono sicuro, lo sappiamo con certezza che lui ha apparati del genere e li usa frequentemente. Dino quanto è Gianfranco. Guarda, mentre stiamo parlando ce n'è uno in funzione. Sono tutti, almeno quattro sono gestibili, come dici tu, col controllo remoto, quindi possono, non solo li puoi gestire da qua, ma li puoi anche gestire da lontano, da fuori casa. Però a me quel sistema onestamente non è che mi interessi più di tanto. A me mi interessa l'applicazione del PC, qua ce n'è uno solo ma molto potente, un HP. Praticamente ho utilizzato per la decodifica e l'analisi anche dei segnali. Gli apparati oramai sono tutti collegati a questo singolo computer. Diciamo che ci va quasi in automatico a seconda dell'apparato che scende. Quello che interessa a me non è tanto il controllo in sé stesso dell'apparato, ma quello che ricevo dall'apparato. Senza il computer sarebbe praticamente impossibile decifrare i telex, i segnali di vari tipo, eccetera. Adesso c'è quello intermedio, diciamo, d'apparecchio, sempre tecnologia digitale, che è collegato al computer, sta funzionando ed è collegato, diciamo, con tutte le stazioni DSC, ecco. Quindi riesce ad operare a distanze veramente importanti. Riprendi Giulio. Ok. E poi c'è da dire anche questo, quando uno ha una stazione acqua di villa, esempio come ce l'hai tu, in parte anche come ce l'ha Roberto, eccetera, e anche altri, anche il nostro amico che ha l'ascolto, eccetera, e tutto sommato arredano anche. Io la vedo anche in quel senso. Quando sono ben disposti, messi che non sono buttati l'uno sull'altro, insomma ben sistemati sui vari tavolini o varie scaffalature, eccetera, tutto sommato fanno parte anche dell'arredamento di una casa, per cui sono apprezzabilissimi soprattutto anche per quello, come se fossero dei mobili ben disposti, e anche quello fanno parte dell'arredamento. Bene, bene, avanti Carlo. Perfetto quello che hai detto, perché io il mio l'ho incastonato praticamente in una piccola bacheca dei mobili di cucina e ci sta a pennello, è proprio quasi quasi sembra che faccia parte dell'arredo, è proprio così importante che ognuno sia contento, insomma, di quello che può fare. Tutto qui, io ti auguro una buona serata, perché stanotte ho il turno alle 21, devo essere ad Alghero sino alle 5 del mattino, per cui adesso mi preparo a cenare, mi devo cambiare, alle 8 devo uscire, ho un'ora di tempo per fare tutto questo. 73 a tutti e ci sentiamo alle prossime. Ok, ciao Carlo, grazie per la chiacchierata e per quel show. Speriamo di risentirci molto presto, in frequenza naturalmente. Ok, ti faccio gli amici per i saluti.